Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, buongiorno a tutti, benvenuti. Resto Radio Convento, sabato 6 ottobre del 2018. Io sono Master Nick e vi tengo compagnia, ma non sono solo, perché come sapete il motto della nostra radio è per raccontarsi e per raccontare. E questo è lo spazio giusto per far descrivere la serata, la festa, a coloro che l'hanno vissuta in pieno, quindi i nostri ospiti, i nostri protagonisti. Ho preso qualche secondo in più perché le due ragazze che mi sono a fianco avevano un po' di fiatone, perché hanno ballato per 3 minuti consecutivi senza sosta, e quindi ho dato loro modo di riprendersi. Adesso sono pronte per presentarsi e raccontarci il motivo della loro festa di questa sera. Benvenute! Ciao! Ciao. Oh. Io sono Laura. Brava, vedi. Ma festeggiare il mio compleanno e quello di altre due ragazze. Oh, fantastico. La Laura fuori onda, fuori microfono, mi aveva detto: "Mi fai le domande?" Invece vedi, è partita da sola lei, infatti, senza... a me non mi fa neanche parlare. Senza motivo. Adesso beh, come a scuola, alza la mano. Tocca a lei. Vai, microfono è tuo. Ciao, mi chiamo Maddalena. Vengo da Napoli. Vivo a Brescia. Ah, viva Brescia, ho capito. No, vengo da Napoli. Beh, viene solo da Napoli. Quattro figli, se vi interessa. No, a noi interessa tutto. Ad esempio, a me interessa capire come mai una romana e una napoletana si trovano sul lago di Garda, innanzitutto. Vai Roma. Allora, io avevo... Tanto Roma che ha vinto 2-0 con l'Empoli, così diamo anche... E Verona che ha perso 2-0 contro il Lecce, tanto per dire, Ti interessa anche il Verona? Segui sì, anche quello? Sì, perché siamo al confine. Ah, ho capito. Roma e Verona sono al confine, tipo... chiaramente. No. Ah, no, scusa. Brescia e Verona. Ah, Brescia e Verona. Torniamo a noi. Forza Napoli. Come mai una romana e una napoletana sul lago di Garda? Avevo sposato un bresciano, poi l'ho lasciato e sono rimasta comunque qua. Ah, perfetto, che è il titolo della tua autobiografia, tra l'altro in tutte le edicole pubblicata a Feltrinelli. Avevo sposato un bresciano, è un libro di grande successo. E sei rimasta qui per lavoro anche, immagino? Sì, perché non avevo nient'altro da fare, quindi ho detto ok. Bello, qua. Una buona scelta di vita, convinta, si vede che è stata un salto di valori, ecco, alla base di questa scelta. E invece la Maddalena, perché ha trovato le mozzarelle anche a Brescia buone, no, come Napoli? No, e io invece l'ho battuta perché ne ho trovati due di mariti bresciani. Ah, però, tra l'altro, a proposito di mozzarelle, vi anticipo che ne hanno portate quattro in diretta. Quattro, sì. Ne hanno portate quattro nei nostri studi. Piene di latte. Abbiamo anche il salame, la spianata romana per chi volesse. Ecco, che bello. Quindi approfitteremo anche di questo momento culinario alla fine, alla chiusura dei nostri microfoni. E io approfitterò, insomma, delle quattro mozzarelle che ci hanno portato qui in dono. E quindi addirittura due mariti, tu, per non farti mancare nulla. Quattro figli. E quattro figli, bene. Non ho nipoti però ancora. Non hai nipoti. Li vorresti? Culo. No, sei a posto così. 20 anni, mia figlia. Vuoi dirci come ti... come si chiamano i tuoi figli? Roberta, 20. Alessandro, 13. Simone, 8. E Martina, 5. Ambo. Addirittura quaterna. Beh, ti sei presa il tuo tempo, giusto? C'è un... No, sono giovane, ne ho 30. No, però nel senso, c'è una buona distanza tra tutti e che ti permette di goderteli a pieno. Bravissima. Bene. E torniamo a noi però al motivo principale della nostra festa, o meglio, della vostra festa, che però è già anche diventata un po' nostra. Quindi, la nostra amica romana festeggia... 36 anni, ma non sei sola, giusto? Altri compleanni? Con altre due amiche, Daniela e Elena. Anche loro festeggiate? Sì. Triplo compleanno. Amiche, colleghe, che rapporto c'è tra voi? Amiche però, beh, immagino recenti. Da quanto siete qua intanto? 30 anni. Ah no, madonna, sono qua da 14 anni. No, niente, altro che recenti, ormai Io sono 30 anni. Vi conoscete da una vita. Anche se non si sente che sono romana. No, però... non si sente effettivamente. Io ero qui di Bolzano, una cosa del centro però. Però Bolzano centro. Facciamo così, facciamo anche una cosa un po', come dire, nazional popolare. Che cosa vi manca della vostra zona e che cosa invece avete trovato qui? A me manca la coda della vaccinara. Ma senti la romana che ci mancherebbe altro. Quindi, ok, coda alla vaccinara, pausa, 30 secondi, ricetta della coda alla vaccinara, vai. Aspetta, è il soffritto di cipolle, carote, sedano, pomodoro, coda alla vaccinara, acqua, e sale e bollita per 2 ore. Perfetto. Circa. E cosa hai trovato? Se venite a casa mia ve la faccio io, che è meglio. Questo è un buon invito, direi, che vengo, bisogna approfittarne. Abito a Brescia. A Brescia. In via non si dice. E cosa hai trovato qua invece? I casoncelli. Ah, è piuttosto cucina comunque, no? Rimane lì, o mi aspettavo un il panorama, il lago, no? Ma più casoncello. Casoncello, sì. Casoncello. Il bagosso. È buono il bagosso. Buono. Questa colorita espressione di giubilo. È molto fine, è la esatto, molto esatto. Elegante espressione di giubilo. Napoli, vai, andiamo a Napoli. Cosa a ti manca della tua zona? Famiglia, basta. Famiglia, ok. E qui invece, quindi, cosa hai trovato di bello? Due mariti. Beh, li metti tra le cose belle, mi fa piacere. Se non avrei avuto i miei bambini. Scuola Faur del Prealpino. Ecco. Via. Beh, ci sta, ci non sta. Non avessi avuto due mariti, non avresti avuto i figli. Quindi, bravo. Cosa fate nella vita, se posso chiedervi? Operaia. Insieme? Colleghe? No. Sì, andiamo, anche al lavoro. Andiamo in palestra insieme. Andiamo in palestra. Alla palestra da Gianni, in Via Orsi Nuovi, facciamo i pesi insieme, ci facciamo il culo tutte le sere. Box Team Ruzze, chi vorrebbe andare, insomma. Chi volesse andare. Come si chiama? Box Team Ruzze, Gianni Lauseo. Menate forte. Sì, abbastanza. Pugilato. Se volete provare, venite qua al convento, nel confessionale, vi diamo un pugno. Bello, è bello. No, è gratis. Beh, io un eurino lo metterei magari come tassa, potrebbe essere una buona, no, una nuova 1,50, una nuova sorta di guadagno. E ma come vi allenate, col sacco, con quello, col punching ball, quello piccolo che balla, sacco, no? Ah, sacco. E poi tanto esercizio, corsa e quant'altro. Ma è così, cioè vi permette così tanto di sfogarvi, come si dice? Direi proprio di sì. E faccio una domanda un po' strana, ma perché ho sentito anche questa testimonianza, addirittura di rilassarvi oltre che sfogarvi? Sì, perché arrivi a casa che hai scaricato la tensione e quindi sei pronta per andare a letto rilassata. Vedi che allora è tutto vero, ho sentito davvero questa cosa, che fare questo tipo di sport è più il relax che ti porta che lo scarico fisico. Sì, perché al momento sei stanca, però quando comunque è passato l'attimo di stanchezza, comunque scende tutto il relax che hai tratto dall'allenamento. Vi allenate con musica o senza? Con musica. Tutto allenamento? Metà, più o meno, metà. Anche metà. Quella aiuta, Sì. Anche quella aiuta. Senti la mia amica romana, dai. A bella. Mi piace. Facciamo così, chiusura. Fatevi un complimento a testa nella vostra, chiamiamola lingua madre, anche se non lo è, però nelle vostre espressioni più colorite, vai. Quanto sei bella, dammi un vaso. Vai. Anche no, non mi viene. Ah, bella romana. Dai, romani, dai, sono fantastici, vai, dai, vai. Dai, è tutta. Non so che dite, dai. Non so che dite. È bella, c'ha gli occhi neri, c'ha i capelli neri, c'ha la bocca rossa. Beh, meno male, perché se c'è la bocca nera. E ne è bella terrore, raga. Senti, raga. Va bene, allora le salutiamo, le ringraziamo, ciao, anche perché la pista le chiama, e le auguriamo una buona serata. Grazie mille, ragazze, alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao.